questa cosa qua che mi serve. E non se la lasciava stare, se. Ma dicevano come appunti, se puoi devi cancellare perché hai spazio, allora fallo. Se spazio ne hai, lascia. Ma le cose, quelle vecchie che servono. Cose vecchie che servono, più o meno, dai, più o meno. Però, va bene. Rimane tutto così com'è, non ci butto niente. No, tocca se, non tocca se. Poi domani mattina sei in giro, fammi uno squillo, ci prendiamo un caffettino, capito? Sì, tutto io. Escono non tardi, neanche presto, io a 7:30 sono già operativo, diciamo, ma è abituato a alzarmi presto, di quel tanto non riesco a rimanere nel letto. Quindi mi alzo, vado al bar, faccio colazione, poi torno nella giornata, dopo, poi torno. Insomma, accendo la radio, accendo tutto quanto, sto un po' così, sino alle 8:30, 9, 9:30 e poi posso anche tranquillamente uscire. Guarda, io dopo mi stiamo al cane, dopo le 9:30, massimo alle 10, se no un'altra volta. Sono liberissimo, anzi, mi annoio pure, una volta mi metto qua a casa, per la mano mia moglie, per giorno pure tutti i vetri. E poi se no me ne esco, se bella giornata come stamattina, domani mi esco, alla grande. Anche stamattina, anche ieri era una bellissima giornata, no, bella davvero, che aspetta, sembrava. Stamattina lo stesso, ero manche coppe fuori maglietta, in magliettina fuori di casa. Sì, io sono uscito con il giubbottino estivo, sue. Maglietta manichiera, camicia manichiera lunga sotto, però il giubbottino estivo. Non c'avevo quello pesante perché ho visto la giornata, era molto bella. Quindi. Va bene, oggi era splendida, oggi era una giornata splendida veramente tutto il giorno, ma anche stasera, io ero a Città Marcata con il giubbottino leggero, un po' di umidità, però ste, temperatura bellissima. No, no, è sì, ha ragione, bello, ho fatto una bella giornata anche oggi, e vabbè, speriamo che domani fino a domenica duri il tempo, poi può anche piovere, non mi interessa. Ma tra l'altro dovrei anche tutti i giorni, da me a tutti. Oramai non sono più in giro come prima, quindi passiamo a tutti. Se piove mi metto a casa, se la giornata esco, ma prima sai, con la pioggia o il tempo brutto, andare a lavoro è sempre una rottura di scatto. Stare sale scendi la macchina, ti bagni, l'ombrello, qui, là. Invece così adesso si bagnano gli altri. Infatti. Mando un programma così almeno sulla giornata. Aggiorna. Non ho sentito qualcuno, ma ne ho girato. Natalia sarà dormita. Allora, dormito, eh? Ma è tutta la settimana, non vogliamo pulire la via, che è brutto. Eccomi. Eia. Ma tra 2 minuti chiudo. Pronto a manicare? Ehi, perché io poi ci rimango qua. Chiudo anche io, quando non c'è qualche messaggio, non c'è niente. Però, e questo gatto di chi è? Tuo è? No, è un coso che ho messo così. No, niente di strano. Stavo guardando. Chi mi ha già chiamato? Ci sentiamo la mattina, dai. E a te, chiamami, dai, intanto te l'ho detto io. Dopo le 10 sono libero, dai. Come mezza, 10 sono ancora lì. E mi sistemo il cane e poi se vuoi andiamo a prendere un caffè. Ciao, un abbraccio, buona cera, ciao. Ok, capo. Ciao, buona cena a te, ciao.